Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? See the new. Estate, bello leggere, magazine, durante il weekend ci hanno tenuto compagnia, estesa rubrica per quest'oggi, un'oretta insieme agli inserti culturali allegati ai principali quotidiani usciti nel weekend appena trascorso. Di rientro dal GR di Radio Popolare per questo 15 luglio iniziamo e ribadisco il 333-180-9494, vi sono due premi in palio e due quiz. Uno riguarderà il design, uno riguarderà un aspetto letterario e anche di animazione, se vogliamo. Vi ho parlato di tempistiche, sapete il tempo per chi fa questo lavoro è un fondamentale la puntualità, e quindi alcuni aspetti che riguardano il tempo che può essere importantissimo in un esiguo, quasi impercettibile, anzi direi impercettibile spazio, come invece un tempo che è veramente esteso. No, non vi tedio con Kronos e Kairos, no, in questo caso è Kronos, anzi da cronometro. Pensate che per quanto riguarda, a proposito di cronometro, e chissà che cronometro in questo caso, la sera del 1 agosto 2021 furono solo 4 i centesimi di secondo a separare Marcel Jacobs da Fred Kerley. Non è un'inezia, niente. Che però significò la medaglia d'oro olimpica nei 100 metri piani per il campione azzurro. Pensate che cronometri che devono usare in questo caso, poi in relazione allo spazio, alla velocità e quant'altro. Però il tempo ha anche un'estensione, come ben sapete, molto, molto, molto più ampia. E la saggistica, pagina 14 di tutto libri, ci parla proprio di tutto ciò nel senso di evoluzione umana. Beh, per quanto riguarda la scienziata Sara Talamo, che analizza la possibilità di applicare la precisione cronometrica anche al passato. In che modo? Beh, con un elemento, sì, è un elemento che è anche dentro di noi, è il carbonio. È molto presente, fra l'altro, è molto presente, e se viene lavorato, adesso io non sono né un chimico né un fisico, per cui avrò delle espressioni inadatte, però il 20% degli atomi che compongono il nostro corpo intanto è carbonio. Una microscopica frazione del carbonio sulla Terra si differenzia per avere, come ho detto, no? Se viene degli atomi leggermente più pesanti con due neutroni in più. È il cosiddetto carbonio 14. Quante volte avete sentito questa definizione? Ma conoscete tutte queste specificità, come si usa e in quali circostanze viene applicato? Beh, da questo saggio misurare la storia è molto interessante, eh? Come vi ho detto, con due particolarità in più, a parte che diventa radioattivo, ecco, poi questo certo ce ne vuole una grande quantità, però ci dà una possibilità, è il famoso carbonio 14. Portatrici di carbonio 14 sono le piante che lo assorbono attraverso la fotosintesi, gli organismi viventi che la consumano per alimentarsi. Il carbonio 14 è, seppur in piccola parte, radioattivo, cioè col tempo si trasforma e diventa azoto, ma nelle piante e negli organismi esso rimane presente con una concentrazione costante finché essi rimangono vivi. È così che viene utilizzato, si misura attraverso la radioattività. Quando muoiono, la radioattività fa sì che la percentuale di carbonio 14 cali man mano che passano gli anni dalla morte. La quantità di carbonio 14 diminuisce, e sentite un po' a proposito dei 4 centesimi che citavo in precedenza, Per la precisione si dimezza ogni 5370 anni e lo scienziato Willard Frank Libby, nato nel 1908, ha avuto dei riconoscimenti importanti perché, tra l'altro, a parte far parte del famoso progetto Manhattan, capì che misurando la frazione di carbonio 14 in reperti archeologici organici, cioè appartenenti a esseri viventi, si poteva stabilire quanto tempo era passato precisamente dalla loro morte. Cioè, il calo di radioattività che si dimezza ogni 5370 anni ha dato la possibilità di scoprire, ecco, determinati aspetti come la data esatta della scomparsa, grazie ovviamente alle spoglie mortali organiche. Per questa scoperta il suddetto Willard Frank Libel vince il Nobel nel 1960. Ricercatrici e ricercatori come l'autrice di Misurare la storia per Raffaello Cortina Editore studiano tecniche per rendere questo metodo, che permette di andare indietro nel tempo fino a circa 55.000 anni fa, sempre più accurato. 55.000 anni fa. È un saggio che conduce il lettore alla scoperta di un mondo affascinante che, come disse Libby alla fine della Lectio Magistralis che tenne in occasione del conferimento del Nobel per quanto riguarda lo studio grazie al carbonio 14, può davvero aiutare a sfogliare le pagine della storia. Arriverà a rivelare all'uomo qualcosa in più sui suoi antenati. In questo modo, a sua volta, forse anche, eh sì, sul suo futuro. Tom Zé, grande artista del tropicalismo brasiliano, oggi tanto Brasile nella nostra playlist, ma troveremo anche, prima dello stacco pubblicitario, altre sonorità, ovviamente come in tutta la puntata dei magazine di oggi, lunedì 15 luglio. Tom Zé. E studiando bossa. A bossa è il titolo del disco, con questo obladi oblada di Beatlesiana memoria. Studio e la precisione da 4 centesimi di secondo a 5370 anni, l'unità di misura del tempo in cui dimezza l'unità di misura del carbonio 14 in un organismo nel passare del tempo, e questo dà la possibilità di risalire, non so come, non chiedetemi come, al periodo di esistenza fino ad arrivare alla sua scomparsa. Tutti questi studi e tutte le ricerche così particolari vengono riprese dal lavoro che vi ho appena presentato. È un saggio, questo saggio, che viene riportato a pagina 14 di tutto Libri Sahara Talamo, Misurare la storia, la casa editrice, la prestigiosa Raffaello Cortina editore. Ma come ben sapete, time is money. Tempo è denaro, e allora quando parliamo di tempo e denaro non ci resta che andare sull'inserto, prestigiosissimo anche l'inserto, anzi un vero faro illuminante per i magazine, quello del Sole 24 Ore, la domenica, dove si parla proprio di questo, di modalità, ecco, quindi il Sole 24 Ore che dà modalità di risparmio, mamma mia il risparmio, che a sua volta è una privazione se ci pensate, no? Modalità di risparmio. Mio tempo, tempo e denaro, ci colleghiamo a questo, però tutto ciò dopo la pubblicità e un piccolo stacchetto musicale che ci dà la musica di David Krakauer. A tra poco! We'll be right back. too frequently touched by loving displaced. Her attention's turned inwardly. Good girl, carefree and strong. The silent words encompass the wrong. She tried to speak the right words, but was tripped by stones and turned. See, mama told her well what to do, but she couldn't speak unless spoken to. He always wanted what he just couldn't reach, stretching out for rotten trees. He had to touch, not content with looking, but succeeded in reaching the top. Young boy, always in wrong, forever singing the wrong song. He knew he'd reach the edge, only one step to take. See, mama taught him well, pushed him good. After all he did his best, mama talked herself. Come up, come down, talked herself down into the ground. Talked herself, come up, come down, talked herself right into the ground. Oh, oh, oh. She lived a life with her heart on her sleeve, always waiting in need. He often seemed confident and strong, and swept her right off of her feet. Unknown, he was the same, forever playing the same game. Herself, come up, come down, talked herself down into the ground. Talked herself, come up, come down, talked herself right into the. Talked herself, come up, come down, talked herself down into the ground. Talked herself, come up, come down, talked herself right into the ground. She said it once, you've heard it thrice. She talked herself, come up, come down. Talked herself down into the ground. If she said it once, she said it twice. If she said it once, you've heard it thrice. She talked herself, come up, come down. Talked herself right into the ground. Mama Dawn, lei è Zara McFarlane. Tornando in diretta, ribadisco 333-180-9494. A breve avremo il quiz per il primo lavoro in omaggio per voi. Sarà collegato ai magazine, ovviamente, sì, e come. She talked herself, come up, come down. Talked herself down into the ground. Talked herself, come up, come down. Talked herself. Vi sentite più cicala o formichina, più risparmiatori oppure un pochettino mani bucate? Ecco, sarà l'estate, però sarà perché il frenire delle cicale mi ha sempre affascinato tantissimo che io mi sento un pochettino cicala. Tra l'altro ci pensavo, anzi apro la finestra un attimo, la conduzione en plein air dà sempre piacere a questa base naturale con la colonna sonora estiva delle cicale. Beh, la cicala è la formica, è una favola storica, quindi non c'è bisogno di star a darne approfondimento, se non che pensando ai motivi di dialogo generazionali che ci sono costantemente in una contemporaneità molto difficile per quanto riguarda il risparmio. Allora, per il risparmio, anch'io da piccolo, la prima volta che regalano un salvadanaio sembra veramente, oltre che l'estetica dell'oggetto che si perde nella notte dei tempi, fino ad arrivare al famoso porcellino park banking, come lo chiamano negli Stati Uniti d'America, la possibilità. Ma il salvadanaio non li moltiplica. Quando troveremo il salvadanaio che li moltiplica, saremo ben fortunati, ma non funziona così. È il risparmio per il risparmio, che già di per sé, secondo me, è una privazione. Ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, però a pagina 2 di Economia e Società sul Sole 24 Ore, per chi risparmia, l'alleato è il tempo. Eh sì, però il tempo intanto passa, E nel dialogo generazionale costantemente sentiamo poi, ma anche giustamente, per quelli che hanno vissuto il boom di fine secondo dopoguerra, che sono tendenzialmente i genitori, di chi ha vissuto invece e ha visto la luce tra gli anni, fine anni 60 e metà anni 80, insomma, beh, voi non riuscirete a dare ai vostri figli quello che invece abbiamo lasciato noi a voi. È un discorso, se vogliamo, anche giusto, ma è ampiamente criticabile per determinati aspetti. Il tempo, le necessità, a proposito di tempo, le modalità di economia, le modalità di risparmio, la situazione della società è totalmente cambiata. Allora, certo, noi non avremo questa possibilità, anche se giustamente i più, diciamo, attenti, anche se assolutamente critici, mi dicono sì, hai ragione, però noi abbiamo vissuto diverse privazioni. Per noi vivere queste privazioni diventa più difficile, perché voi uscivate da un periodo oltre che di privazioni e anche con un timore di tornare a tutto ciò. Noi, generazione che vi ho appena così elencato negli anni che ho descritto poc'anzi, che ho enunciato poc'anzi, cioè quelli tra la fine degli anni 60 e poco prima della metà degli anni 80, secondo me finora hanno vissuto il periodo, se vogliamo, più bello, ecco, per cui è difficile pensare di... Ecco, lo sbaglio, la mia critica è questa, è che non abbiamo lasciato culturalmente quello che abbiamo vissuto in positivo per quanto riguarda un momento fulgido. Ecco, noi abbiamo pensato più a noi stessi, abbiamo pensato di più, adesso sto generalizzando e tagliando la situazione con l'accetta, col macete. Noi abbiamo pensato molto di più a godercela piuttosto che a lasciare invece motivo di esperienza, di cultura, di attenzione, di approfondimento. No, noi abbiamo unicamente pensato a vivere siamo stati superficiali, ecco, quello sì. Ma non vedo la colpa nel non poter lasciare economicamente quello che è stato poi lasciato. Ripeto, sto facendo dei discorsi molto generici, quello che invece è stato lasciato a noi. Noi non abbiamo lasciato la nostra esperienza, non abbiamo lasciato la bellezza, l'attenzione, la cultura, anche i momenti di difficoltà. Noi quelli non abbiamo saputo mantenere invece la trasmissione nel dialogo. Ecco, di quello invece sono già più d'accordo. Comunque, divagando un attimo, per il risparmio il miglior alleato è il tempo. Questo è l'articolo a pagina 2, però ovviamente, come ho già detto, poi intanto il tempo passa, è già di per sé una privazione. Vi sarà sicuramente capitato di mettere da parte nel famoso salvadanaio qualcosa e poi intanto il tempo passava e risparmiare, certo, è importante. Bisogna vedere anche che progetti si ha, chi ha risparmiato per il motorino, chi ha risparmiato per prendere determinati abiti anche, o chi ha risparmiato per le vacanze, o chi ha risparmiato per... E molte volte non si riesce però a raggiungere l'obiettivo, e più si va avanti più si fa fatica, e nello stesso tempo questa fatica diventa poi privazione, e dipende poi da tante cose, questo aspetto e questa filosofia che si va ad approcciare a proposito del risparmio. Posso parlare per esperienza personale. A metà anni 80 io avevo nel portafoglio unicamente per la giornata del martedì, perché era la giornata in cui usciva per me la Bibbia, il Super Basket famoso, e nello stesso tempo all'Istituto Fioravanti avevo 10 ore di lezione con 6 ore di officina meccanica, quindi la scelta era questa: o Super Basket o il panino col salame, e molte volte, anzi il più delle volte, la scelta andava Super Basket. Darling, you send me. Darling, send me, boy, honest, you do. Baby, you can't feel me, boy. I thought it was infatuation, but it lasted so long. I found myself wanting to marry you and carry you home. I believe, send me, you send me, boy. Yeah, you send me, baby. Honest, you do. Caro William, una riflessione: se il capo muore ci troviamo tutti a pezzi, anche se ha usato un'altra definizione. Eh sì, penso tu ti stia riferendo alla lettura delle prime pagine. Comunque invece, per scusa se ho letto solo ora il tuo messaggio, intanto grazie. E per quanto riguarda il discorso di pausa merenda a scuola, vabbè, il panino è gratis, dai, è fatto a casa dalla mamma. Infatti io molte volte mi prendevo anche il pane del giorno prima pur di riuscire a comprare Super Basket. Certo, anche Sergio, guarda, io per tutta l'infanzia e adolescenza mi sono sentito rimproverare perché stavo vivendo la giovinezza non in guerra, come purtroppo era capitato a loro. Sì, non era un bel rimprovero, voglio dire, però molte volte sappiamo come certi aspetti venivano evidenziati in maniera, pensando magari di dare un monito per il nostro bene, ma non è esattamente così. Can you see it now, brother? Can you see the new? Can you see it now, sister? Can you see the new? Can you see it now, brothers? Can you see the new? See the new? No, non essere così molto molto tranchant, molto draconiano l'ascoltatore che scrive SMS e non si firma. No, facciamo l'amore, non la guerra. Ci mancherebbe in un momento come questo, poi. Poi c'è anche un aspetto umano, secondo me, per proprio esattamente per l'essere umano. Cioè, quello che abbiamo vissuto noi è difficile poi ritornare o pensare a certi aspetti che sono diventati abitudine, ecco, nella nostra modalità di vita. Poi ci metti il consumismo, che è una roba allucinante, che è il principale demone tentatore insieme al capitalismo, per cui insomma tutto ciò diventa molto difficile nel fare il famoso passo indietro, no? I know we open drop a wood like a chauffeur. I hope for your help. So pick up yourself and see the new. They break and make a new tighten your belt. I melt the ice that's blocking the path from me to you. Can you see it now, brothers? Can you see the new? L'incertezza aumenta e le pensioni poi, che rappresentano una frazione piccola del reddito percepita nell'età lavorativa e comunque assai inferiore a quella delle vecchie generazioni. Una ricerca recente di Intesa San Paolo, quindi attenzione, è una banca, dimostra che i giovani fra i 25 e i 34 anni hanno piena consapevolezza della fragilità del sistema pensionistico attuale. ma un terzo di essi non ha mai pensato a strumenti pensionistici integrativi, perché non vanno in banca. Tra l'altro, questo è un articolo un po' mirato, solo un giovane su cinque ha una pensione integrativa. Il possesso di un fondo pensione privato cresce con l'età, ma anche con il crescere dell'età rimane elevata la quota di chi volutamente ha deciso di non sottoscrivere un fondo pensione. Una volta c'era, mi pare, un... c'era... ah sì, lo Stato, ecco, lo Stato. This life strife must end, put the pen to the paper, the shaper. Things to come can be pleasant if only me and you break free, break through, see the new, see the new. Can you see it, my brothers? Can you see the new? E la prima pagina della Domenica del Sole 24 Ore, elogio del salvadanaio. Suoni, metodi e memorie. I suoni è quando lo agitavi per sentire quante monetine. Ma ripeto, salvadanaio, dice la Domenica del Sole 24 Ore, è un sistema molto onesto. Ti ridà quello che hai inserito, ma è quello che c'è fuori che non rispetta quello che hai inserito. Risparmio fatto ad arte, ne esistono di tutte le forme, possono essere oggetti di bellezza indipendentemente dalla funzione. Ci ricordano che il denaro è legato al nostro ciclo vitale, tra sterco del demonio e di lucciole tentatrici, aggiungo io. Comunque, di formati ve ne sono diversi. Il salvadanaio perfetto, capolavoro senza tempo del design, è la copia di quello dei legionari romani, un piccolo orcio in terracotta panciuto a forma di pera con un basamento per mantenere la posizione eretta e un'escrescenza a foruncolo, così chiamato, alla sommità, insomma per inserire i sesterzi. La più antica testimonial del risparmio è la formica, come ho aperto questa parte del breakfast, mascotte del museo di Torino, dove appunto a Torino il museo del risparmio. A lanciarla per primo in questa veste fu Esopo. Dilazionare i consumi, accantonare risorse per tutta la stagione è l'insegnamento impartito Esopo, predisposto dalla condizione di schiavo, appunto, in una realtà molto difficile, a prestare attenzione agli ultimi, dalle affaticate formiche operaie che come oggi trascinavano i fuscelli e altri carichi sproporzionati in quel VI secolo prima di Cristo. Il di Esopo pu di trasmettere l'insegnamento attraverso una favola, beh certo, come ovviamente spesso capita, grazie al mito, alla classicità greca che tanti insegnamenti ha dato. Allora, il design del salvadanaio, trovate salvadanaio, salvadanaro, si chiama in tanti modi, ovviamente il più famoso è il porcellino, ma tanti anche hanno delle immagini, delle forme, la casetta, ecco, basta una fessura. E poi c'è quello che ti dà la possibilità di essere aperto senza doverlo frantumare con la famosa martellata o la botta, no? Per poter utilizzare una volta per tutte il denaro salvato, mentre invece alcuni hanno il tappo in plastica sotto, ma questo lo conoscete molto bene, è una particolarità che spesso come gadget, come si dice adesso, ci viene regalato o proposto. È una forma di design anche nel salvadanaio. Design, allora andiamo a pagina 12 della Domenica del Sole 24 Ore, prima della pubblicità. pagina 12, loro sono Kruderdorfmeister intanto, che hanno queste sonorità a proposito di design, dal salvadanaio all'epoca del tutti i giorni nella space age pop, modalità di arredamento con queste immagini arrotondate, le lava lamp, i colori molto particolari nelle cucine, nei tavoli, nelle sedie. A proposito di sedute, ce ne sarà una molto particolare, protagonista del nostro quiz, e in premio un lavoro di Giovanni Comisso, Guerra vista dalle retrovie, vicende di questo lavoro. Allora, Comisso è uno dei miei autori preferiti, lui è di Treviso, è stato per il Novecento uno scrittore molto importante, ha la capacità di dare un'altra visione, un'altra prospettiva. Torna Giorni di guerra, La nave di Teseo, Cronaca su cose e uomini. Non ho questo lavoro per voi, ma ho Sempre a tema, il titolo è inquietante, sempre dalla nave di Teseo, libro bellissimo, e il libro ne ho due copie, appunto ho pensato di portarlo in premio, è Gioventù che muore, Giovanni Comisso, e La nave di Teseo è per voi. Allora, pagina 7, l'articolo di Alias nella presentazione invece del suo ultimo libro che sto cercando di recuperare, in questo caso per voi invece un'uscita di un paio di anni fa. Se non conoscete o non avete mai letto nulla di Giovanni Comisso, questa è una buona occasione per arricchire la vostra biblioteca. Parliamo di arredamento, parliamo di stile, parliamo di design, ma com'è possibile qui al Breakfast Club? Beh, ogni tanto può capitare, grazie anche all'articolo a pagina 12 della Domenica del Sole 24 ore, nell'astronave degli anni 60, poi con questa musica, tra l'altro questa musica definita cocktail music, space age pop, a Palazzo Attems i protagonisti del boom che hanno cambiato moda, arte e design. L'imperativo è essere assolutamente moderni, esaltare il corpo e prendere la mobilità come valore in sé. La domanda è questa, prima della pubblicità: quale articolo di arredamento è stato motivo di gravi difficoltà con uno dei personaggi del maestro Paolo Villaggio? Ricordate che c'era Fantozzi, ma c'era anche Fracchia. Ecco, Fracchia aveva una grande difficoltà nel proporsi davanti al gigantesco Gianni Agus, che interpretava il direttore, lo invitava ad accomodarsi e lui aveva un'enorme difficoltà a mettersi a suo agio davanti a questo oggetto stupendo, tra l'altro tipicamente space age pop. Beh, se me lo scrivete, è per voi appunto il lavoro che vi ho appena presentato. A tra poco, buon ascolto. We'll be right back. Si accomodi, prego. Giù sulla poltrona? Sulla poltrona. Ecco, ecco qua. Non è meglio che mi metta... Lì sulla poltrona? Eccomi. È a suo agio? Sì. Molto. Oh. Allora? Ma dov'è? Ma cosa fa? Ma si alzi, per favore! Effettivamente sono molto a mio agio. Si alzi, si sieda sulla poltrona, le ho detto! Sì, se ci tiene. Ma non ci tengo, si sieda! Vabbè, scusi, Allora, ricapitoliamo. Aspetti un attimo. Ma cosa fa? Si sieda. Mi fa le volte, mi fa... Ma come si permette? Si sieda. Una bella strissata. Do una bella strissata. Si sieda. È molto insidiosa questa. Bisogna essere ricapitoliamo. Molto... Di che reparto è? Da militare? Ma no, come mio dipendente. Ma siamo nelle mani del destino noi. Guardi, lei adesso mi deve dire come è inserito nell'organigramma dell'azienda. Come? Lei sa cos'è l'organigramma, no? Ecco, c'è le branchie. Genio, genio a tutti i tempi. Sì, non ho potuto fare a me. Adesso devo togliere queste immagini perché mi distraggo, perché siamo di fronte alla fisicità di Chaplin, al contenuto di denuncia di un Dostoevskij, al paradosso di Kafka, alla genialità grazie a una comicità che mette insieme il dolce amaro di grandissimo talento di un Paolo Villaggio tutti i tempi. Sì, è un puff! Risposta esatta è puff. Però, grazie Gianluca, mi stai insegnando tanto, perché è Sacco di Zanotta, probabilmente. No, non probabilmente, è il nome in italiano. La risposta era puff, però. Arriva primo Jarno da Calderara, puff, scritto perfettamente, o poltrona a sacco, se la risposta esatta era puff. Grande Jarno! Un filo in ritardo la nostra Paola, ma restate in ascolto, c'è un altro lavoro per voi, e in questo caso è andata bene, perché abbiamo un grande scrittore italiano e un grande scrittore inglese, commisso comunque vinto da Jarno di Calderara. Grazie Terenzio, sei arrivato un filo in ritardo, però resta in ascolto, eh. Poltrona in pelle umana, quello è un altro motivo. Ma firmati anche, così abbiamo un motivo di... Noi ci conosciamo, dai, 333-180-9494. Giovanni Comisso, Gioventù che muore, con una bellissima prefazione di Paolo Di Paolo, un lavoro della Nave di Teseo. Beh, complimenti, Jarno ti dà la possibilità, se già non lo conoscevi, ci mancherebbe, di trovare la narrazione di Giovanni Comisso, grande scrittore del Novecento, sottovalutato, per me è un imprescindibile. Lui e Giuseppe Berto per me sono... Dopo passo alla Ubi, che è Jarno, così avrai il tuo libro a disposizione. Adesso ce n'è un altro, però mamma mia, questo è bello importante, da Robinson. E come lo proponiamo? Beh, intanto ci possiamo collegare l'argomento, anche se non c'entra assolutamente niente, lo ammetto, con quello che vado a presentare, se non che fosse per il nome eponimo. Ecco, ho scoperto, conoscevo già, però nel dettaglio, da Arcade, eponimo di Arcadia, et in Arcadia ego, io sono anche in Arcadia. Cantami, o diva, la vacanza lontano dall'ego. Bello, Arcadia, ognuno di noi ha la sua Arcadia, non vi sto a dire qual è la mia. Comunque l'Arcadia esiste veramente, eh? È un'enclave del Peloponneso tra boschi, vegetazione rigogliosa, lontana da tutto ciò che può essere qualcosa che vada a disturbare un aspetto bellissimo, che è il niente. Ecco, il niente per me è veramente a volte troppo sottovalutato. Nell'Arcadia di Arcade, personaggio mitologico che tra l'altro è stato trasformato all'ultimo momento prima che uccidesse la madre in orso, perché la madre a sua volta è stata trasformata in un'orsa, in quanto in una delle sue scappatelle Giove, pur di sedurre questa giovane ninfa, la seduce, da questo frutto d'amore nasce Arcade, che poi diventerà un re in seguito e un grande cacciatore. Sta di fatto che questa ninfa Callisto era una delle ninfe di Artemide, che sapete, per Artemide la verginità era fondamentale. Dice: ma come, tu ti sei, capisco che Zeus, ma ti sei fatta sedurre, per cui per punizione ti trasformo in un'orsa. Sapete che queste dee erano un pochettino nervose, no? E avevano dei metodi molto vendicativi, e il figlio non sapeva che quest'orsa in realtà era sua mamma. E Giove lo vede all'ultimo secondo, Zeus lo vede intanto che sta per scoccare questa potente freccia, e che fa? Lo trasforma in un piccolo orso a sua volta, e un po' dispiaciuto di tutto ciò li vuol premiare in eterno e li manda in cielo. E quindi avrete già capito da lì cosa nascerà: l'orsa maggiore e l'orsa minore, le due costellazioni. And then he came back later on, and I totally fucked up, couldn't even walk. Has he been stalking you? Or? Yeah. This is the recall service for 0795. Please enter your security code. You have one message. E l'eponimo di Arcade è Arcadia, questa terra meravigliosa. Pensate che è stata dipinta, fra l'altro, qui la metterò anche nella copertina della puntata, qui da un artista, Nicolas Poussin, al Museo del Louvre. Nel 1640 dipinge questi pastorelli che trovano questa sepoltura, e la scritta Et in Arcadia Ego, e sono anche in Arcadia. Si dice poi che l'abbiano trovata nella terra di lingua d'oca e via discorrendo. Insomma, un aspetto che va dalla sacralità al mito, anche se il primo a riprenderla fu il Guercino all'inizio del 600. L'allegoria del memento mori non è una novità, ma lo è l'ambientazione bucolica, che verrà ripresa poco dopo in un dipinto ancora più noto, sì, di Nicolas Poussin, che è un dipinto meraviglioso. Qui tra pagina 2 a pagina 3 è un archetipo esattamente della pittura nel Et in Arcadia Ego. Sacralità, leggenda, un Cristo che viene rianimato, non risorto, ma viene rianimato, scappa, fugge in lingua d'oca, dove appunto tra l'altro leggende di templari vanno a riportare determinati aspetti molto dibattuti, eh? E in tale circostanza nel quadro di Poussin si rivede chiaramente Et in Arcadia Ego un paesaggio simile. L'Arcadia quell'enclave che esiste veramente, fra l'altro, che è nel Peloponneso. Tra l'altro si parla una lingua misto cipriota per evidenziarne le origini micenee. Ma io sull'Arcadia vi chiedo un'altra cosa per avere. Ta-da! Questo è un librone. Che Robinson di solito parla di TikTok, diciamo che è il magazine più lontano. In questo numero invece porta degli articoli molto interessanti, tipo leggiamolo insieme. Ecco, ve lo dico subito, il libro di Ian McEwan è Espiazione, il fatale equivoco di McEwan, parte che per me è uno dei più grandi scrittori viventi in assoluto, il capolavoro dell'autore britannico, il prossimo titolo che affronterà il nostro book club. L'isola di Robinson, appunto, riprenderà una sorta di lettura di gruppo per quanto riguarda questo romanzo capolavoro, uno dei pochi lavori in cui poi la trasposizione cinematografica, ammetto, sarà altrettanto bella. Il romanzo poi comincia in un caldo giorno d'estate del 1935, dove questa giovane ragazza non resiste, fa il bagno in questa fontana, vestita poco, bellissima, ragazza bellissima, adesso non ricordo l'attrice, figuriamoci. In quel periodo, 1935, tra i due conflitti mondiali, che ha ispirato tantissima letteratura molto bella, che cosa vede Bryony, che è la protagonista, e che cosa farà per rimediare al suo tragico errore, per aver visto questa storia d'amore nella sua evidenza più carnale, e lei insomma si sente anche in colpa, tra l'altro avrà motivo anche di sentirsi in colpa, ma lei cercherà di espiare. In che modo troverà espiazione? È un grande genio come Ian McEwan lo saprà raccontare. Uno dei libri più belli che abbia mai letto, Espiazione, una storia d'amore stupenda, una storia nella storia, la bellezza totale. Lo so, Gianluca, hai tutte le ragioni del mondo, non lo sapevo neppure io, è giusta la tua risposta. Però non è neanche sbagliata, però puff, mi sta portando dimostrazione concreta come Sacco di Zanotta sia forse più italiano, non lo so. L'attrice Keira Knightley. Grazie Paola, film meraviglioso. Hai letto il libro? Abbiamo parlato di... Addirittura l'articolo sul design inizia con la parola astronave. C'era un'astronave che si chiamava così nella narrazione dei famosi cartoni animati giapponesi, che si chiamava l'Arcadia. chi guidava l'Arcadia? Io voglio sapere da voi al 333-180-9494. Chi era il leader carismatico dell'Arcadia nello spazio, eh? Se nessuno risponde, pensavo fosse molto facile questa, pensavo di trovare risposte immediate subito, invece vedo che chi era il non posso dire il suo grado perché sennò è troppo facile dopo, però è questa astronave, l'Arcadia, chi era il leader dell'Arcadia? Ah, se no il premio lo do a Gianluca, eh. Tu Paola, Espiazione l'hai già letto, dimmi la verità, Perché la risposta l'hai data subito o quasi ed è tua, sì, è Capitan Harlock, ovviamente Capitan Harlock è un personaggio, questo è un pirata tutto nero, quello che diventa una formula di ribellione interstellare. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. If I owe it to myself, justice I owe it to her. Justice is the reward of penalty given to those according to their own deeds. I owe it to her. If I owe it to myself, I owe it to her. Sì, bravo Gianluca, bravo anche Dino. È arrivata subito Paola, però mi dispiace. Adesso vediamo se ha già letto il libro. Cause they got a piece like VCs, to say the least. He's a company by these man-made laws that says I can't puff. Grande, beh, sarei premiata in altro modo, però per onestà lei ha detto Espiazione ce l'ho. Allora io direi che Gianluca, che è stato così preciso per quanto riguarda il quiz precedente, se non ha mai letto Espiazione, merita di leggerlo. Molto sportiva Paola, e arriva con i saluti, ok, si merita che lo leggano altri, che lo leggano altri, grazie, ma hai persino così fatto balbettare per la tua sportività, apprezzo tantissimo. E infatti il lavoro Espiazione arriverà a Gianluca, comunque sarai premiata Paola, ne hai altri da leggere, sono certo. Grazie anche a Dino, grazie anche a Jarno che invece si porta a casa nella sua biblioteca Fujiko Giovanni Comisso per la nave di Teseo. E io mi preparo perché alle 11 ho l'intervista col curatore della esposizione di Urbino, Federico Barocci, ma non Barocco è il titolo che a pagina 32 ne porta Robinson, originale maestro di transizione tra il manierismo e la pittura del Seicento. La sua città, Urbino, gli rende omaggio e sono riuscito a portarlo protagonista in mostra nella puntata di giovedì. Per oggi è veramente tutto, grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Domani martedì, magico martedì e imprevedibile di Radio Città Fujiko, dalle 7 puntuali per fare colazione assieme dal vostro William Piana. Un buon lunedì, una buona settimana e un buon ascolto. Mi raccomando, ore 7 domani, Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti!